got a slick chick. See, a neat chick. The she's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The hot heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Everybody stopped on a dime to look. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She, it's a neat chick. But she, what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah. know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, mama, mama. Yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click click, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah. little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick su Radio Wombat, Wombat Radio se vi sentite un po' internazionali. Oggi è mercoledì 4 ottobre, prima puntata di ottobre, si potrebbe dire autunnale, pre-autunnale di Slick Chick. E come vi avevo detto e come i più affezionati sapranno e si ricorderanno sicuramente, perché io lo so che mi seguite proprio tutti i giorni, anzi siete in ansia lì a dire oioioioi come andrà a finire la prossima puntata eccetera eccetera, e come i più affezionati appunto sanno, oggi dobbiamo trattare la seconda parte di Cronenberg. Vi tocca, mercoledì scorso vi è toccata la prima parte su David Cronenberg, sul cinema di David Cronenberg e la musica adesso correlata, o la musica perlomeno veniva tirata un po' in ballo. E a questo punto è passata una settimana, spero che ci abbiate riflettuto, che abbiate avuto grandi incubi grazie alle allucinazioni di Cronenberg, e sì, e ora siamo alla seconda parte. Seconda parte perché, si era detto l'altra volta, era talmente vasto l'argomento che non mi è bastata un'unica puntata. Però vi do una buona notizia, questa puntata non sarà lunga quanto l'altra, sarà molto più corta, c'ho molta meno musica, c'ho molto meno pipponi da farvi, perché insomma sì, va bene la filmografia, però non è che proprio era Kubrick, ecco, cioè comunque sia era poi poraccio, non è che è morto, però diciamo che insomma c'ha diversi film al suo attivo, però li abbiamo già trattati abbondantemente, quasi tutti nella prima parte, quindi ce ne rimangono solo pochi da trattare, quindi state tranquilli, non vi farò andare a dormire sereni, perché d'altra parte sempre di Cronenberg si parla, però sarà abbastanza rapido e spero indolore. Allora, iniziamo subito e per prima cosa però adempio ai miei compiti di brava DJ e vi ricordo i social Wombat, il sito wombat.noblogs.org a cui potete fare riferimento per tenervi aggiornati, c'è un po' di tutto, c'è il palinsesto, ci sono ovviamente i podcast, molti di voi immagino che ci staranno ascoltando grazie a questo, e soprattutto avrete varie delucidazioni sulle nuove trasmissioni che fresche fresche stanno per partire. È un po' che ve la butto lì, è un po' che ve la accenno, vi giuro non sono trasmissioni immaginarie, non è che lo so solo io. State tranquilli, ma calmi, pazienti, ma sappiate che arriveranno e vi lasceranno sbalorditi. E poi dicevamo la mail posta wombat@insiberia.net, no, not net, e anche questo è un po' un riferimento a cui scriverci e mandarci tutti i vostri consigli improperi e quello che volete. Ma ora che ho detto un po' tutte le cose pratiche importanti, veniamo subito al dunque. Nella prima parte di Slick Chick, dedicata a David Cronenberg, abbiamo parlato del Cronenberg classico, quello un po' più conosciuto, dei suoi film storici, quelli che probabilmente insomma l'hanno reso più famoso, o probabilmente i primi che avrete visto di lui, credo, non lo so, almeno per me è andata così. Abbiamo parlato di trasformazioni, di come questo regista abbia sviscerato, e direi che il termine è proprio appropriato, abbia sviscerato il rapporto tra carne e macchina, di come la scienza e la tecnica stiano mutando l'umano, l'essere umano, e poi di come la società organizzata reprima le profondità umane che comunque restano lì sopite e chi le manda via sono pronte a venire fuori alla prima occasione. Di questo peraltro continueremo a parlare anche nel corso di questa puntata. A un certo punto Cronenberg ha apparentemente cambiato registro. Ora, se siete dei veri fan, vi saprete già che non è vero che è stato proprio un cambio di registro vero e proprio, però diciamo che effettivamente, almeno da un punto di vista stilistico e apparente, beh sì, c'è stato tra un Cronenberg o un Pasto Nudo e A History of Violence, effettivamente c'è stato un bel salto. Tra il 2005 e il 2007, infatti, ha fatto uscire due film dallo stile differente, diciamo meno cruenti a livello carnale e visivo, meno surreali sicuramente, anzi costantemente legati alla realtà, eppure altrettanto disturbanti. Direi che è una bella gara, insomma. Questo perché Cronenberg ha deciso di buttarsi dentro l'argomento violenza. Ora, non che Crash o gli altri film di cui abbiamo parlato l'altra volta fossero poco violenti, ma lui ne sentiva il bisogno di proprio andarci dentro ancora di più e voleva parlare più esplicitamente di una violenza riconosciuta in maniera diversa, la violenza ad esempio delle gang criminali, delle pistole, delle botte, cose di questo tipo. Per addentrarci in questa parte della scaletta ci facciamo introdurre dai Fantomas. Fantomas, vabbè, uno dei tanti gruppi costola di Mike Patton, e che direi che in quanto a cinema e violenza ne sanno un bel po'. I Fantomas tagliano e cuciono dal cinema, dai vari film che li hanno impressionati, ne fanno venire fuori dei pupazzi mostruosi, secondo me bellissimi. Se non li conoscete, forse siete fortunati, è meglio così, ma se siete masochisti ve li consiglio perché comunque sono un bel po' disturbanti, vi ammazzeranno. Nessun brano dei dischi dei Fantomas è esplicitamente dedicato ai film di Cronenberg. Io un po' ci speravo, ma devo dire che mi hanno deluso, non è andata così. Ma in tanti hanno paragonato la loro musica alle atmosfere cronenbergiane. Anche perché insomma è abbastanza evidente, penso che vi verrà in mente anche a voi. Quindi mi sento a posto con la coscienza, il nesso c'è ed è pure evidente, non vi devo sempre rifilare soltanto le colonne sonore a Howard Shore, e quindi vi faccio ascoltare dall'omonimo disco Fantomas, appunto, del 1998, appunto, i Fantomas con Book 1, Page 4. Thank you. Ecco, grazie a Mike Patton per questa introduzione rilassante, rassicurante e comunque ridente, ma d'altra parte io ve l'ho già detto a questi microfoni che Mike Patton può fare un po' quello che gli pare e a me andrà sempre bene. E in ogni caso effettivamente è servito per introdurci questa storia di violenza, History of Violence, film del 2005 interpretato da Viggo Mortensen, che voglio dire poi da lì in poi è stato un po' il feticcio di Cronenberg, non solo lui devo dire, ma insomma sì, lui in particolare. È uno dei lavori di Cronenberg a più alto budget. Non si direbbe, perché in realtà di effetti speciali non ce ne sono, di cose strane non ce ne sono, come si diceva prima, niente salti nell'irrealtà, niente surrealismo, ma anzi bei piedi radicati in terra. Eppure è un lavoro per il cinema bene, come dire. Cronenberg ha dichiarato che la decisione di dirigerlo, perché Cronenberg comunque le cose te le dice, non è che è molto didascalico, questo gli va dato atto. Lui ha detto: la decisione di dirigerlo è stata influenzata dalla necessità di finire di pagare alcuni stipendi per il mio precedente film Spider. È andata così, ha fatto la marchetta, che comunque sti cazzi della marchetta, io direi che cioè, non è che ha fatto proprio il panettone, panettone de Vanzina, e quindi va bene, sono stati tutti contenti, i poveracci portapanini di Spider che non avevano avuto lo stipendio in questa maniera hanno avuto lo stipendio, noi ci abbiamo avuto un bellissimo film, siamo tutti contenti. Questa pellicola è tratta dall'omonima graphic novel scritta da John Wagner e illustrata da Vince Locke e pubblicata dalla Vertigo nel 1997. In italiano viene tradotta banalmente con Una storia di violenza ed è uscita per la Magic Press. Allora, Cronenberg non vorrebbe che si raccontasse la trama, anzi ha proprio detto a tutti: mi raccomando, non dite in giro di cosa parla il prossimo film, perché se no rovinate tutto. Però diciamo che dal 2005 adesso sono passati un bel po' di anni, possiamo prenderci la libertà di dirla, perché insomma l'avrete visto. Se non l'avrete visto, vabbè, pazienza, vi sto facendo spoiler, cazzi vostri. La trama è più o meno questa: Tom Stell è il proprietario di una tavola calda, vive con mogliettina e figli, tutti biondi ovviamente, no, sì, mi sa che sono tutti biondi, in una piccola città dell'Indiana, e diventa l'eroe locale dopo aver sventato una rapina alla tavola calda, uccidendo i rapinatori sotto gli occhi di tutti e sotto la meraviglia di tutti, che dicono: ma come, ma questo pacifico e ridente barista che si improvvisa eroe? Ma comunque sono tutti contenti, poi insomma in America si sa che vanno così le cose, sono tutti felici. Però il problema di quando diventi famoso è che ti vedono tutti. Sì, l'ha voluta la fama, sì, e ti vedono tutti. Tra gli altri, anche alcuni membri della mafia irlandese di Filadelfia, che lo vanno a ricercare sostenendo che il morigerato Tom in realtà è Joy Cusack, chissà come si dice, Cusack, boh. Compare loro, collega di malefatte, che li aveva traditi 20 anni prima. Queste supposizioni rompono l'equilibrio dell'intera famiglia e infrangono la vetrina della normale normalità. Questo è più o meno la trama così, che insomma non è che poi vi ho svelato tutto chissà qua, sì, ok, un pochino sì, ma insomma poi c'è ben altro, ecco. La storia di violenza di Cronenberg è, come dicevamo, alle prese con un impianto narrativo molto più lineare e verosimile, decisamente improntato sul classico, un po' un noir a tratti pulp, ma ovviamente in perfetto stile Cronenberg, molto disturbante, molto elegante peraltro anche nella sua rappresentazione visiva. Questo è una costante in Cronenberg, in qualsiasi film che ha fatto. La pellicola fonda le radici su un tema, diciamo, si può dire ineliminabile della condizione umana, ovvero l'innata presenza del sopruso nella quotidianità dell'uomo, allo scopo di mostrare quanto sia labile il confine che separa la presenza appunto di questo sopruso della violenza, in particolare dall'assenza o rimozione. Poi vedremo dopo che Cronenberg su questa questione della rimozione della violenza dalla vita di tutti i giorni ci batte un bel po'. È anche, volendo, uno smascheramento della forza bruta che abita la nostra quotidianità e che insidia la cosiddetta normalità del sogno americano. Non è neanche troppo velato, diciamo che Cronenberg ci va giù bello pesante, e è bello che lo faccia su un film appunto ad alto budget, che non era proprio il B-movie come, che ne so, robe più vecchie che aveva fatto, ma anzi un film che è andato ai vari festival, è andato sui cinema, strapagato e stravisto, quindi insomma è stato doppiamente interessante. E quindi adesso ci ascoltiamo un pezzettino, una clip, e poi a seguire di nuovo i Fantomas, ve li beccate un'altra volta, poi smetto, ve lo giuro, ma ci traghetteranno sul film successivo. Punto vincente in arrivo, ragazzi! Grande amore! Ciao. Ti amo. Non mi prendi novellati! Ehi, signor Star! Ciao, Jared. Buongiorno, Pat. Ciao, Tom. Tutto buono, grazie, Tom. Buona serata. Stiamo chiudendo, signori. Caffè. Mi dispiace. Siamo chiusi. Oh, lo so. Sì, lo so bene. Zitta! Non abbiamo molti contanti qui. Non ti muovere. Ammazzala! Ci avrebbero ucciso. Ci ha salvato la vita. Ciao, mio eroe. Tom Stoll è un uomo tutto casa e famiglia, un membro di vecchia data di questa comunità. Oggi la popolazione si stringe intorno a lui e lo definisce un eroe. Congratulazioni, Tommy! Ancora giornalisti? Non sembrano giornalisti. Tu sei il grande eroe. Non mi piace parlarne, signore. Li hai sistemati bene, quegli uomini cattivi, Joy. Io mi chiamo Tom. Chi è Joy? Dimmelo tu. Mia figlia, dov'è? Papà, che succede? Non so chi siano. Mi hanno scambiato per un altro. Non si preoccupi, signora Starr. Mi prendo cura io di lei. Non so cosa vuole. Non mi interessa. Invece dovrebbe interessarle, perché quello che voglio può cambiare la sua vita. Perché non lo chieda a Tom? E gli chieda come mai è così bravo ad ammazzare la gente. Dimmi la verità. Chi sei? Che musichette che vi metto edificanti. Avete ballato su questa? Un bel valzerino. Questa era, erano sempre i Fantomas con questa volta The Good Father, un omaggio ovviamente a The Good Father, al Padrino. L'album era The Director's Cut del 2001, bellissimo album che vi consiglio assai. Questo diciamo che era la loro versione del Padrino, ecco. E questo ci serviva appunto, come vi dicevo prima, per traghettarci verso il secondo film di cui vi volevo parlare stasera, ovvero La promessa dell'assassino, The Eastern Promises, del 2007. Siamo a Londra e Anna Kitrova, non fate battutine stupide, è un'ostetrica di origine russa che rimane colpita dalla tragica morte di una quattordicenne che praticamente muore dopo aver dato alla luce una bambina. Non si sa questa ragazza chi fosse, e Anna si mette in cerca appunto della sua identità, di chi era, di che cosa facesse e quant'altro. Lo fa tramite un diario che gli aveva trovato addosso quando era arrivata in ospedale, che però è scritto completamente in russo. Tra le pagine del diario l'ostetrica trova questo biglietto di un ristorante, un biglietto da visita, ristorante chiamato Trans-Siberian, con somma fantasia, e allora lei si va in questo ristorante per cercare notizie e cerca di rintracciare la famiglia di origine di questa ragazza, magari così en passant per affidargli la bambina appena nata. Il ristorante è gestito da questo tizio, Semyon, che però in realtà nasconde dietro questa faccia bonaria, un po' da vecchietto russo, un po' così esotico, ma anche in qualche maniera rassicurante. In realtà dietro di lui si nasconde, cioè dietro quella faccia si nasconde il capo di una cosiddetta fratellanza criminale, di una cosca mafiosa chiamata Vori Zakon, al cui vertice c'è anche il figlio Kirill, che è Fassbender, altro feticcio di, cioè interpretato da Fassbender, altro feticcio di Cronenberg. Figlio Kirill, uomo un po' bizzarro, un po', come dire, altalenante, non proprio perfettamente inserito nel quadro familiare, diciamo così. Eastern Promises diciamo che è un po' il culmine di questo paio di film che Cronenberg ha messo in piedi sulla violenza. Ovviamente, come tipicamente fa Cronenberg, al centro di tutto c'è un po' il corpo. Questa volta un corpo ambivalente, beh, questa volta, forse anche le altre volte lo era, però in questo film lo è in maniera molto palese, molto evidente, il corpo sia come portatore di violenza sia come vittima di violenza, quindi dall'inizio alla fine viene inquadrato cioè in maniera quasi ossessiva dalla macchina da presa. Corpo a volte nudo, a volte congelato, decomposto, ferito, in mille modi, proprio perché sia evidente che è il corpo dell'uomo a essere al centro della questione, soprattutto tatuato tantissimo dai vari traditional russi. Se diciamo che la fine di History of Violence poteva, beh, diciamo ai più sempliciotti, mi sentirei di allargarmi in questa, così, in questa definizione, però se poteva suggerire un barlume di speranza, perché comunque c'era questa famiglia che comunque alla fine di tutto sopravviveva e però vabbè dai, si tira avanti e la famiglia in qualche maniera ti riscatta, ti aiuta e ti sorregge, anche se mi sentirei di dire che la scena finale piena di silenzi non è che proprio sia una cosa edificante e rassicurante, ma vabbè, c'è chi piace così. Qua invece non c'è neanche questa funzione, la famiglia anzi è tutt'altro che salvifica, è tutt'altro che rassicurante, e siamo al collasso totale di quelle che poi Cronenberg considera come delle istituzioni ossessive e estremamente problematiche. In particolare qui la famiglia è portatrice di violenza in maniera neanche troppo velata, ecco. Ma questo era il pippone, ma per chiunque ha visto questo film il fattore veramente più importante rimangono i tatuaggi. Sì, i tatuaggi russi che, non, da cui non si può prescindere. Quindi con un triplo salto mortale, per parlare di questo film vi faccio ascoltare un pezzo di Imelda May che si intitola Love Tattoo, dallo stesso, lo stesso titolo ha anche il disco Love Tattoo del 2008. Blood and sweat. And now through your hearts and I love you. A name on your arm saying you'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do. Well, he's mean and rude when he wakes and starts. Yeah, one of his moves can just break my heart. By the pounds and the thumbs when he grabs me tight. I love a rough lover every inch, every night. And now to your heart saying I love you. A name on your arm saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do. This heart of a boy talks soft to me. Behind closed doors he can be so awfully sweet. When he lays by my side he's my very own real white child. With his heart of stone sitting all alone between the anchor and the bride. And now to your heart saying I love you. A name in your arms saying it'll always be true. Declaration of love in red, white, and blue. You're gonna love to do. You're gonna love to do, yeah! Come un fratello per me. E ora? Ora sembra un cono gelato del cazzo. Mostra del rispetto per un uomo morto. Rispetto? Questo è rispetto. Ok, Kale. È tutto tuo. Mostra del rispetto. Piderast. Lei ha asciugacapelli. Finito di tagliargli i capelli. Ho pensato che forse voleva 6,50 dalla sua tasca. Meglio bruciare portafogli. Ok. Ora gli tolgo i denti e gli taglio le dita. E conviene uscire di qui. Titoja. Da. Questo era sempre una clip tratta dalla promessa dell'assassino. Io ho fatto un errore imperdonabile, ve ne sarete accorti, scusatemi tantissimo. Prima ho detto Michael Fassbender, in realtà no, in realtà si tratta ovviamente di Viggo Mortensen anche in questo caso. Tra l'altro ha pure vinto l'Oscar, poraccio, non è che ora gli si può proprio togliere il ruolo di protagonista così brutalmente, e che vi devo dire, era sbagliato. E ora basta, finita questa storia di violenza e questa promessa dell'assassino, continuiamo con un altro film, il film successivo di Cronenberg, che è uscito qualche anno dopo, nel 2011, A Dangerous Method. Un film un po' particolare, ancora diverso da questi due, diverso sicuramente dagli altri che l'avevano preceduto, quelli più vecchi, più classici, quelli che citavamo anche nella prima puntata, nella prima parte di Slick Chick, ma diverse anche da questi ultimi due, un caso un po' a parte. Io vi confesso subito che a me non è piaciuto molto Dangerous Method. Io che sono, l'avrete supposto, sono una grande fan di Cronenberg, Dangerous Method non mi è piaciuto assolutamente. Forse mi aspettavo un pochino troppo e sono rimasta piuttosto delusa. Ma c'è da dire che il tema della psicanalisi Cronenberg, insomma, a Cronenberg interessa un bel po'. Prima ancora di completare lo studio universitario, Cronenberg aveva realizzato la sua prima creatura in 16 mm, ovvero Transfer, titolo non casuale, nel 1966, un bel po' di anni fa, un corto di circa 7 minuti incentrato sulla vita di uno psichiatra costantemente inseguito da uno dei suoi pazienti. Il titolo evidentemente ha un richiamo neanche insomma troppo suggerito, ma proprio palese, sulla nozione di transfer usata in campo psicanalitico, quindi anche su Freud, Jung e quant'altro. Però l'abbiamo già detto, la filmografia di Cronenberg è intrisa ovunque, in qualsiasi momento, dalla psicanalisi. Nel 2011 Cronenberg decide di realizzare un film più esplicitamente legato proprio alle origini della psicanalisi e a quello che appunto per lui probabilmente era un tema ed è tuttora un tema molto molto molto caro. Un film, questo qui, A Dangerous Method, basato sul carteggio tra Carl Gustav Jung e Sabina Spinrein, carteggio che era venuto fuori qualche anno prima e che aveva dato modo di indagare in modo, volendo, anche un po' morboso forse, comunque sicuramente un certo tipo di interesse c'era, aveva dato modo di indagare su i rapporti tra appunto Jung e la sua paziente Sabina Spinrein e in generale sulla vita di Carl Gustav Jung, di cosa pensasse anche al di là di quello che scriveva ufficialmente, insomma un po' della sua vita privata, ecco. Il cast è questa volta direi piuttosto stellare, come dicono i critici, cioè quindi con nomi abbastanza quotati, c'è Michael Fassbender, questa volta c'è davvero, lo giuro, che fa Jung, poi c'è Keira Knightley nel ruolo di Sabina Spinrein, Viggo Mortensen che fa questa volta Sigmund Freud e Vincent Cassel che fa Otto Gross, un paziente, vedremo, piuttosto importante nella storia. Il film, ambientato tra Zurigo e Vienna alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, si basa sui rapporti che citavamo un po' prima tra lo psichiatra Carl Gustav Jung e il suo mentore, il suo maestro Sigmund Freud e Sabina Spinrein, soprattutto Sabina Spinrein un po' al centro di questa vicenda. Siamo a Zurigo appunto nel 1904 in particolare e lo psichiatra Jung, che allora aveva 29 anni, quindi era abbastanza all'inizio della sua carriera, vive con la moglie, lavora presso l'ospedale, un ospedale da un nome impronunciabile di Zurigo, e essenzialmente, come la storia ci insegna, Jung, dapprima molto ispirato dal lavoro di Sigmund Freud, Jung a un certo punto decide di tentare su questa giovanissima paziente, 18enne, Sabina Spinrein, tutta una serie di trattamenti, in particolare quello sperimentale di Freud, che veniva chiamato la terapia delle parole, che poi dal quale poi derivò la psicoanalisi, ecco. Ci sono varie letture che si potrebbero dare a questo film. Una, la più ovvia, è suggerita dalla domanda che Jung pone a se stesso e al collega Freud. Vi ricordo, è un carteggio, quindi ci sono continui botte e risposte e confronti tra i due. La domanda è: perché tanti affannosi sforzi per soffocare i nostri più elementari istinti naturali? Un interrogativo in realtà abbastanza banale, ma di fatto spiazzante, che Cronenberg alimenta anche con l'entrata in scena di Otto Gross, appunto interpretato in questo caso da Vincent Cassel, che è un paziente, come si potrebbe, dissoluto, un paziente dissoluto, cattivello, determinato a varcare i cosiddetti confini della cosiddetta altrettanto morale comune. Ma dubito che sia tutto qua. Voglio dare fiducia a Cronenberg che ci sia un po' altro, insomma, se no non importava poi veramente farci un altro film su questa cosa. Magari si potrebbe trattare ancora una volta di sondare il medico che diventa paziente, un po' come avevamo visto nella Mosca, ma non solo, il metodo scientifico che porta alla trasformazione, un transfer, un'altra volta proprio il transfer portato all'estremo e un disturbo saldamente intrecciato alla cura stessa. Queste sono le mie speranze, vi ripeto, non mi è piaciuto moltissimo il film, quindi ne parlo un po' così. In ogni caso, anche per chi non conosce la vicenda, è sicuramente interessante andarselo a vedere. Poi comunque c'è lo stile di Cronenberg, glaciale, e che vale comunque sempre la pena, e tra l'altro anche l'interpretazione degli attori, che non è niente male, come dire. Ma vabbè, io non sono una critica di cinema, vi lascio a poi quella che sarà la trasmissione sul cinema, prossima avventura da questi microfoni, per raccontarvi meglio del cinema. Ci interessa invece in questo caso prendere lo spunto per farvi ascoltare un po' di musica, e siccome io già dalla scorsa puntata vi dicevo che non ne posso più di farvi ascoltare Howard Shore, che poi è l'unico compositore a cui Cronenberg ha affidato le sue colonne sonore, allora ripiego su altro e previa una piccola clip, in questo caso è Otto Gross che parla, doppiato, ahimè, sì, previa una clip di Dangerous Method, dopo vi faccio ascoltare un pezzo dedicato a Freud, per l'appunto, un serissimo pezzo, molto molto molto serio, di Chad Mitchell Trio, del Chad Mitchell Trio famoso anni 50, che se non conoscete andatevelo a ascoltare, e il pezzo è Ballad of Sigmund Freud. Lei ha dei figli? Due femmine. Stessa madre? Sì. Quindi lei non crede nella monogamia? Per un nevrotico del mio livello, immaginare un concetto più logorante è impossibile. E non trova che in fondo sia necessario o desiderabile porsi qualche limite come contributo personale al tranquillo svolgersi della civiltà? A che pro? Per ammalarmi di sicuro? Tendevo a pensare che qualche forma di repressione sessuale dovesse essere praticata in ogni società razionale. Non c'è da stupirsi che gli ospedali trabocchino. Mi spieghi. Il modo migliore per accrescere la propria popolarità presso le pazienti è dirgli ciò che hanno più voglia di sentirsi dire? Che importanza può avere essere popolari presso di loro? Beh, non lo so. Mettiamo che lei voglia chiamarle. Se c'è una cosa che ho imparato nella mia breve vita, è questa. Non reprimere mai niente. Now we'd like to tell you the story of probably the grandfather of all modern day psychoanalysts, the great Dr. Sigmund Freud. Well, it started in Vienna not so many years ago, when not enough folks were getting sick, that a starving young physician tried to better his position by discovering what made his patients tick. He forgot about sclerosis and invented the psychosis and the 100 ways that sex could be enjoyed. He adopted as his credo, down repression, up libido, and that was the start of Dr. Sigmund Freud. Well, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, Dr. Freud, how we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Well, he analyzed the dreams of the teens and libertines, substituted monologue for pills. He drew props just like Walt Sattler, when along came Human Adler, and they said, by God, there's gold in them bar ills. They encountered no resistance when they served as Freud's assistants, as with ego and with it they deftly toyed. But instead of toting bedpans, they wore analytic bedpans, those ambitious doctors, Adler, Young, and Freud. Well, Dr. Freud, Dr. Freud, marching in, who's marching in? How we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. Have departed, but not so the cult they started. No, it's being carried on by a goodly band. And to trauma, shock, and war shock, someone's gone and added Rorschach, and the thing has got completely out of hand. So old boys with double chinsies and a thousand would-be Kinseys, they discuss it at the drop of a repression. And I wouldn't be complaining, but for all the loot I'm paying, just to lie on someone's couch and say confession. Well, Dr. Freud, cha-cha-cha, Dr. Freud, cha-cha-cha, how we wish you had been differently employed. But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud. But the set of circumstances still enhances the finances. Well, that was beautiful, fellas. Of the followers of Dr. Sigmund Freud. Cha, cha, cha. We'll be right back. Questi erano i Metric con I Don't Want to Wake Up, tratta dalla colonna sonora incredibile ma vero. Sì, è War Shore, c'era comunque, ma c'erano anche i Metric, c'era un pezzo fatto insieme. Colonna sonora di Cosmopolis, o Cosmopolis, non so come preferite dirlo, del 2012. È proprio di questo film che stiamo andando adesso a parlare. Si cambia ancora registro dal inizio secolo e dai padri della psicanalisi, passiamo a il meraviglioso capitalismo odierno, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Don DeLillo, scrittore italo-americano come suggerisce anche il nome, pubblicato nel 2003 almeno in Italia. Questa pellicola è incentrata su questo giovane miliardario Pattinson, che diventerà, poi lo vedremo, altro feticcio di Cronenberg. Va un po' affittonate Cronenberg, prima Viggo Mortensen, poi ora poi con picchi di Fassbender, mo Pattinson, vabbè. E sì, appunto, un giovane miliardario che attraversa New York a bordo della sua limousine, molto lentamente, e ovviamente all'interno di questo viaggio e all'interno di questa limousine si avvicendano vari personaggi e ostacoli e cose strane, bizzarre. E diciamo, in realtà questo film è proprio un qualcosa di morboso e putrido e andato a male, nonostante non stia assolutamente parlando di cose apparentemente scabrose, perché in realtà probabilmente tra tutti i film di Cronenberg è sulla carta il più asettico, il più lineare. Non ci sono corpi morti, martoriati, non ci sono cyborg, non ci sono insetti, uomini che diventano insetti, la carne non si trasforma in televisione, insomma, teoricamente dovrebbe andare tutto bene. Nella realtà, poi, Cosmopolis è un qualcosa di estremamente disturbante, glaciale, sempre come ci ha abituato Cronenberg, e secondo me piuttosto ben riuscito. Io devo dire che ero rimasta molto male dopo Dangerous Method, mi sono andata a vedere Cosmopolis e ho detto vabbè, allora il vecchio Cronenberg c'era ancora da dire, poveraccio, l'avevo sottovalutato. Anche lì c'è un qualcosa di virale, qualcosa di malato. In questo caso la parola, almeno sia secondo lo scrittore Don DeLillo, che probabilmente anche Cronenberg era affascinato da questo dettaglio, la parola vista come un qualcosa di malato, qualcosa che invece di aiutare devasta e nausea, sfianca e rende tutto un po' senza senso, un po' un'allucinazione. Quindi c'è una vagonata di parole, troppe parole, appunto, veramente nauseante. Ed è un film che di fatto, appunto, mette in crisi l'efficacia della parola e che fa risultare tutto governato dal caos, e quindi non ci si può appigliare più a niente, manco al raziocinio, manco alla parola, manco alla razionalità, perché intorno a noi c'è tutto il caos e c'è questa lunga limousine che attraversa il caos e che buona parte lo genera, questo caos, e che anche se pensa di poter rimanere ai lati o anche un po' sopra a dominarlo, in realtà ne viene completamente invasa. Per cui questo, insomma, di fatto era un po', secondo me, l'augurio di Don DeLillo per il nuovo millennio, probabilmente lo è pure per Cronenberg, che la borghesia e il capitalismo in qualche modo venga ingoiata dal suo stesso caos che produce. Questo è un po' quello che almeno io penso di questo film di Cronenberg, e vi ho già fatto sentire un pezzetto tratto da questo, quindi ci avviciniamo alla conclusione. Ma prima di questo, prima di fare questo, di farvi sentire gli ultimi pezzi che riguardano l'ultimo film, sia l'ultimo film uscito di Cronenberg, sia l'ultimo film che vi faccio ascoltare io, prima di questo vi leggo gli appuntamenti di questa settimana, di inizio ottobre, almeno gli appuntamenti che ho sulla Wombat Agenda, che vado tosto a sfogliare, e come sempre Non sono tantissimissimi perché siete pigri e non ce li mandate. Vi ricordo che per farlo basta una semplice email, molto web 1.0, ma dai, ce la potete fare. Scrivete quindi apposta wombat@insiberia.net per scriverci cosa c'è di bello. E quello che però vi posso dire è che ci sono un bel po' di cosette in questo fine settimana che poi inizia da domani, ovvero giovedì 5 ottobre al Next Emerson, concerto dei, organizzato al collettivo Nuovi Rumori, e abbiamo Heavy Code Thursday volume 1, che è il titolo della serata, non è il nome del gruppo perché ho letto Enrico sopra, e con Moe dalla Norvegia, chissà se si dice Moe, io dico Moe, proprio differenti, i Moe, però non lo so, magari si dice Mo, chissà, comunque norvegesi ben noti e piuttosto interessanti, ve li consiglio. Poi ci sono i Dead dall'Australia, i By the River dalla esoticissima Pisa e i Saat da l'altrettanto esotica Empoli. Poi invece il giorno dopo, venerdì 6 ottobre, sempre al Next Emerson, allora, cioè una lunga serata che si intitola Together We Are Strong, giusto per non lasciare niente all'immaginazione, e si inizia alle 20:30, cioè per una volta in vita vostra dovete arrivare presto, non sempre soltanto a vedervi concerto a luna. Venite presto, tanto magari non ci avete manco voglia di cucinare, venite alle 8:30 perché c'è una cena benefit per le BSA a Livorno che, visti i recenti avvenimenti e le recenti sfighe, ne hanno un bel po' bisogno. In particolare per allettarvi ci sarà il caciucco e il 5-5, quindi direi che insomma non c'è bisogno di dire altro, e vi dovete prenotare però alla mail che trovate sul sito dell'Emerson, che vi ricordo essere www.csaexemerson.it. Vi prenotate alla mail e gli dite quanti siete e sono tutti contenti. Poi proseguendo alle 21:30 inizia il concerto, sì, ebbene sì, c'è anche il concerto benefit, questa volta per Sebastiano, un compagno di Spezia, della Spezia, che è stato tirato in causa per un'azione antifascista e si è visto denunciare, e quindi concerto benefit per lui e per le spese legali. In particolare suoneranno i Cosa Nostra da Bologna, i Clear Out sempre da Bologna, i Lenders da Roma, i Coito Flambé, e vorrei sottolineare questo nome perché insieme ai Piscio Sangue probabilmente sono tra i meglio nomi degli ultimi anni, da Lucca non avevamo dubbi, e i 75 da La Spezia. E poi proseguiamo con sabato 8 ottobre, che è una ricca giornata, e perché c'è la terza festa di Rifredi al parcheggio in fondo a Viale Corsica. Viale Corsica, che come saprete ormai forse non lo riconoscerete perché hanno devastato tutto togliendo gli alberi e tirando tutto giù, ma cercate di orientarvi, è quella via brutta senza alberi, scarna, quella lì è Viale Corsica, in fondo c'è il parcheggio L'Aria Cane autogestita, e lì ci sarà il 7 ottobre sabato la terza festa di Rifredi dalle 15, mercato contadino a cura di Genuino Clandestino più banchini di autoproduzione, informativi eccetera. Dalle 15:30 ci prendiamo cura del verde abbandonato della via, quel poco che è rimasto, perché insomma non è che c'è molto da curare, ma vabbè. Dalle 16:30 alle 18:30 assemblea sulla difesa dei territori a cura del comitato abitanti di Viale Corsica con altre realtà cittadine. Dalle 16 invece, che non so perché è scritto dopo, ma insomma inizia prima, dalle 16 un workshop di costruzioni in bambù, perché appunto ci stanno gli alberi, speriamo almeno nel bambù. Dalle 19 alle 20 teatro orazione intima di Gillo Conti Bernini. Dalle 20 cena popolare benefit comitato abitanti di Viale Corsica, il comitato appunto che tra l'altro si è battuto quest'estate contro l'abbattimento degli alberi. E alle 21:30 concerto rockabilly con Simone Di Maggio Duo e 17 Mimi Funky and Soul. È tutto, meno male, perché sennò mi si seccava completamente la gola. Beh, insomma, direi che per essere un inizio ottobre c'è già un bel po' di cosette. Quindi Stay Wombat e frequentate i posti del Liberati Fiorentini. E questo che vi faccio ascoltare oggi, adesso invece è Howard Shore. Sì, mi è toccato alla fine, ma solo un pezzo dentro tutta la scaletta. Alla fine non è andata così male. Dalla colonna sonora di Maps to the Stars, che vi annuncio essere l'ultimo film di cui parliamo oggi, e questi sono i main titles. Howard Shore, Maps to the Stars, main title. Sì, Maps to the Stars è esattamente l'ultimo film di cui andiamo a indagare, film del 2014, sono passati 3 anni e ancora Cronenberg non ha fatto uscire niente di nuovo, ma noi attendiamo. Questa pellicola di Cronenberg dietro a, vabbè sì, c'è una vicenda in realtà abbastanza così, abbastanza anche banale volendo, una vicenda di due attori bambini, attori ovviamente messi al centro del mondo di Hollywood che li piglia, li mastica e li sputa, che in realtà critica e ridicolizza soprattutto, anche in maniera piuttosto satirica, umoristica, il rapporto tra il mondo dello spettacolo e anche un po' la cultura pop occidentale nel suo complesso. E in realtà prende anche in giro molto la vita privata delle celebrità e un po' il mondo fittizio e immaginario che hanno costruito intorno a sé, rivelando le ombre varie che ci possiamo di fatto poi abbastanza immaginare. Quindi di per sé non è niente di cioè la trama soprattutto, ma anche lo svolgimento non è niente di impensabile, è un po' che dietro Hollywood e le star del cinema ci sia qualcosa di estremamente putrescente, direi che ce lo aspettiamo un po' tutti, ecco. C'è di buono il come Cronenberg tira fuori questo marcio, che è sempre qualcosa di abbastanza interessante, abbastanza devastante, disturbante sicuramente. Questo è Maps to the Star. Io vi saluto, vi do appuntamento chiaramente a mercoledì prossimo, non prima di farvi ascoltare un omaggio ad Hollywood, proprio così, perché Maps to the Star ci portava proprio a questo omaggio che ad Hollywood che fanno i Public Enemy. Public Enemy, lo saprete, insomma, molto affezionati anche alla cultura di massa e pop americana, gli rendono un fantastico omaggio, sdolcinato anche un po' e pieno di affetto, nel 1990 dall'album Fear of Black Planet. Io vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su questi microfoni, sempre su Radio Wombat. E questa è The Public Enemy Barn, Hollywood Barn. Burn, Hollywood, burn, I smell a riot going on. First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me. Get me the hell away from this TV. All this news and views are beneath me. So all I hear about is shots ringing out about gang putting each other's head out. So I'd rather kick some slang out. All right, fellas, let's go hang out. Hollywood or would they not make us all look bad like I know they had? But some things I'll never forget, yeah. So step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around. Big Daddy, a smooth word to mother. Let's check out a flick that exploits the color. Rolling through Hollywood late at night. Red and blue lights with a common sight. Pull to the curb, get played like a sucker. Don't fight the power, the motherfucker. As I walk the streets of Hollywood Boulevard, big and hard it was for those who starred in the movies portraying the roles of butlers and maids, slaves and hoes. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I figure you to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, as for playing a lawyer, out of the question. For what they played, Aunt Jemima is the perfect term, even if now she got a perm. So let's make our own movies like Spike Lee, cause the roles being offered don't strike me as nothing that the black man could use to earn. Burn, Hollywood, burn. Now we're considering you for a part in our new production. How do you feel about playing a controversial Negro? Yeah, I'm with it. You mean somebody like you, if he knew Nate Dress Brown, right? Well, it's a servant, Arthur, that shuffles a little bit and sings. Yo, man, what? Hey, Q, can't play. Listen, I hope you ain't wasting my time. You know how I feel about giving these movies my money. You know what I'm saying? I work hard for. Come on, man. This movie's dope, man. Movie's chill, man. Hey, I'm chill too, man. But you know what I'm saying? I just don't. I can't go for the Steel Magnolia shit. You know what I'm saying? It's cool, man. It's cool. Ladies and gentlemen, today's feature presentation: Driving Miss Daisy. No, man. No. Just what I'm talking about. All these terms and conditions shit. I'm out of here. Hey, yo, check it out, man. I got Black Seas at the crib, man. Y'all want to go check that out? Yeah. That's the idea. Come